and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago, ultima puntata della settimana, cosa ci riserverà? Per adesso un bassottino incarognito come Tito. Strano, perché per tutta la settimana Tito è stato tranquillo, gli ho dato da mangiare, lavoro da tutor in maniera molto così pacifica. Insomma, adesso dimentichiamoci, perché ormai è stato contagiato dal morbo Geure Geure, lo vedi? E si è trasformato incontrovertibilmente nel un A. Bassotto Geure Geure! Ah! Oh! Denti! Morsi! Ringhi! Ringhi? Ah! Belva assetata di sangue! Mostro infernale! Ah! Oh! Dobbiamo rassegnarci! Il mondo sta per conoscere una terribile catastrofe! Sì! La catastrofe de... Invasione dei bassotti Geure Geure! Sì, poi ti faccio cagare, Tito, dai! Prende Drago! Sì, comandante K! L'Arizona è uno di quegli stati... Perizoma? L'Arizona? Ah, scusa. Il perizoma, no, anche. Mi accusano ultimamente di essere maschilista. Eh beh, certo, ma il perizoma è sia maschile che femminile. Infatti, hai ragione. Il perizoma si usava anche... Tu lo usi, no, io no. Però i pelle rossa, appunto, io uso la mutanda, quella Y, le Y fronts. Y fronts. Va bene, comunque l'Arizona, sai, è uno di quegli stati... È uno di quegli stati... Esprimiti a parola, cos'è stati? È uno di quegli stati un po' conservatori, un po' duri, insomma. Vietato questo, vietato quello, vietato tutto. Vabbè, il West. L'unica cosa non vietata, appunto, è il possesso di armi da fuoco. Per forza, il vecchio West, sì, West un corno. Siamo nel 2011, almeno così dicono in giro, e nel 2011 l'Arizona è effettivamente ancora un posto molto simile al vecchio West. E quindi stupisce questa coppia gay arizoniana. Ma com'è? Cos'è? Si arizoniana. Dice arizoniana. Vabbè, insomma, dell'Arizona, una coppia di uomini gay che ha adottato 12 bambini, nonostante in Arizona il diritto di adozione spetti soltanto alle ormai rare famiglie composte da mamma e papà. Evidentemente in Arizona, come in Italia, le leggi sono fatte per una realtà ideale e non per una realtà fattuale. Però vabbè, pazienza, è così. Guarda, vedi? Adesso fai un'altra digressione. Tito si trasforma di nuovo nel bassotto Geure Geure. No, quindi, vabbè, per favore. Allora, aggiungiamo soltanto che la coppia gay in questione, composta da papà Steve e da papà Roger. Una Steve Rogers Band. Ma no, niente. Ecco, Steve e Roger, grazie alla semplice buona volontà e al semplice buon senso di organizzazioni di assistenza sociale, sono riusciti ad adottare, uno dopo l'altro, ben 12 ragazzi che erano parcheggiati in orfanotrofi statali. Ma come hanno fatto? Si sono rivolti a istituti no profit, hanno dimostrato di meritare fiducia e semplicemente hanno aggirato con eleganza gay la legge dell'Arizona. Sai, sono molto eleganti. Sì, certo. Con sì, completa sì, soddisfazione di tutti, dai bambini agli assistenti sociali. Alla faccia dei cowboy intolleranti, però, scusa. I cowboy intolleranti li trovi solo al cinema, Ma cosa intendi? Tipo Brokeback Mountain? Sì, la montagna della schiena rotta. La schiena. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Bambino Alberto, commentiamo con te la notizia della coppia gay che ha adottato 12 bambini. Ma ti va? Cazzo, ma Drago, ma ti sembra? Perché? Ma cos'è? Scusa, bambino Alberto, allora, come ti sentiresti se invece di mamma e papà avessi due papà? Due papà? Ma in che senso? Ma vedi, non capisci nemmeno, ma lascia stare, cambiamo argomento. Ma no, ma cosa dici? Stai forse mettendo in dubbio 40 e passa anni di progresso civile, sociale, politico e morale, Politico. E mulare. Cioè, no, ma spiegami meglio. Dimmi. Due papà, nel senso che uno dei due è mio papà vero. Va bene. E invece della mamma c'è un altro signore? della stessa età di mio papà? Sì, due papà, te l'ho detto. Che vanno insieme all'IKEA. Esatto, no, portano in giro. Non però non sono tutti contenti che l'IKEA dica che due papà vanno. Vabbè, ma vedi che non capisci. C'è il rapper Giovanardi. Sì, e lui è sempre... O è Giovanotti, qual è? Questo è molto divertente. Comunque non sarebbe male, dai. In questo menage, la mamma dove sarebbe? Non ci sarebbe la mamma. Come? No, dai, io voglio anche la mamma. Ma no, ma non si può. Come facciamo? Adesso facciamo il menage a trois. Non si può. Vabbè, due papà e la mamma? Ma bello, dai. Ok. Due papà senza mamma? Brutto. Hai visto? È così, bianco e nero. Io la mamma mica posso perderla così. Sì, però tu devi immaginare di essere un bambino. Sarai orfano. No, ma infatti, ma tu devi immaginare di essere un bambino cresciuto senza mamma e con due papà. Non ti può mancare la mamma, non sei orfano se non l'hai mai conosciuta, capito? No? Così. Ma niente. Dai, ma è inutile, ma cosa insisti a fare? È troppo piccolo per certi discorsi, dai. Io non sono troppo piccolo, Se sono troppo piccolo, allora lo sono anche quando devo andare a prenderti le sigarette in orario di asilo. No, come? Cosa è successo? Ma niente. Hai mandato il bambino Alberto a comprarti le sigarette in orario d'asilo, l'hai fatto uscire dall'asilo. Ma è successo una volta. Sì, una volta al giorno. Ah, ecco. Anzi, una volta mi ha anche chiesto di tornare indietro per prenderti anche il grattavinci da 20. Quindi due volte al giorno. Ma capo, tu sei un pazzo, il grattavinci. Ma da 20, il grattavinci da 20 euro. Ma guarda che intanto impara ad attraversare la strada da solo. Sì, e poi impara a comprare le sigarette agli adulti. Quantomeno, cioè, sono cose utili, no? Un rapporto commerciale. Diciamo che tra l'altro le sigarette a un bambino così piccolo forse non dovrebbero nemmeno darle. Ma poi mica compra le sigarette, compra il tabacco, le cartine, c'è tutto. Ma dove sei rimasto, Drago? Poi per il grano ti danno tutto a chiunque. Dai! Anche i fuochi d'artificio, I Raudi, vero Kappa? Ma come ti ricordi che a Carnevale tu mi hai mandato. Ma sta zitto! Vabbè, ma Kappa, sapevo che eri un bambino proprio come questi qua dell'asilo, uguale identico. Però io non pensavo che fossi arrivato a questo punto qua di incoscienza. I fuochi d'artificio. Ma stavamo parlando delle coppie gay. Cosa c'entra adesso i Raudi? Perché cambiamo discorso? Tito! Sei un po' in ritardo, In ritardo. Il filo l'abbiamo perso 5 minuti fa. Vabbè, allora, bambino Alberto, torniamo a bomba, Crescere con due papà. Allora. Vabbè, e con due mamme no? Anche questo è possibile. Con due mamme saresti contento? Direi, no? La mia mamma e la signora Mirfia. Sì, magari Gildo come fratellino. Vabbè, sì. Beh, quello anche no. Cioè, Gildo, ma come? Gildo amico. Amico d'asilo. Due mamme solo per me. Ah, tutte per te. Vabbè. Quelle le vuole tenere tutte per me, scusate. La mia mamma, diciamo, per la parte di coccole e di accudimento logistico. Sì. E la signora Mirfia. Cosa? Ma la signora Mirfia per fare giochi, no? Ma che giochi? Ma cos'è? Cos'è che gesti fai? Ma i giochi da tappeto, no? Di da salotto! Da tappeto, Sì, da tappeto a gambe crociate. Fate i giochi del tappeto voi, da tappeto. Come sono sti giochi da tappeto? Non lo so. Ma da salotto, no? Gambe crociate sul tappeto e fai, non so, il gioco della bottiglia. Ma come il gioco poi della fai bottiglia? Il gioco del décolleté. Ma non esiste il gioco del décolleté. Sì, il gioco di Laura Antonelli, no? Il gioco di Laura Antonelli, vabbè, basta, finita, dai. Finita l'intervista, la campanella, prego. Ma chiama al telefonino. Campanella. E ora, bambini, e tutti a casa. Ma sì, mamma, sto arrivando, devo solo attraversare la strada. Appunto. Cosa vuoi? No, è Drago che borbotta. Borbotto. Ma non starlo a sentire. Ma dai, ci vediamo subito, adesso arrivo, dai. Drago, quando parlo con mia madre, non borbottare, che poi lei si insospettisce. E fa bene a insospettirsi, scusa. Ma non ti devi impicciare dei miei fatti familiari. Va bene, però almeno adesso ammetterai che stare qua ad aspettare di attraversare la strada è una menata e che ti provoca anche problemi logistici con tua madre. Ma quindi no, non ma sei mia madre via. Mi conosce. Lei sa, se dico che arrivo, non è vero, capito? Quindi, lei lo sa che se tu dici. Se dico 5 minuti, sono 50. Ho capito. Se dico che devo attraversare la strada, in realtà sono dall'altra parte della città, anzi, sono ancora letto, mi devo ancora svegliare, capito? Vabbè. E quindi lo sa, però il traffico qui continua. Ma certo che continua, tranquillo. Lei mica lo sa invece il traffico, che noi abbiamo fretta. No, io non ho fretta, tu hai fretta, io non ho niente da fare dopo. Ma allora perché scalpiti sempre? Sei sempre qui che scalpiti, non si può attraversare, devi attraversare, si può attraversare. Sono semplicemente nervoso, no? È una tara della mia personalità. Mamma, sì, no, ci sono, sto per suonarti il campanello, guarda. Dai, sei davanti alla porta e non mi vedi, sì. E no, perché, vedi che l'oculista aveva ragione, ma guarda che quella cosa lì non è da sottovalutare, perché, e poi dopo, fatti vedere, ti accompagno io, guarda, adesso sto arrivando e ti accompagno, dai, stai lì che arrivo, dai. Ciao mamma, ciao. Mi compri il Cenovis, per favore? Grazie, ciao. Manon mano. E siamo arrivati venerdì. Ringraziamo tutti quelli che hanno scritto le mail, ma ringraziamo anche quelli che permettono a Chiedo Asilo di andare in onda. Quindi K e Drago sono quelli che parliamo più di tutti. Poi c'è il bambino Alberto Caserini, che parla 3 volte la settimana. Grazie. Grazie, grazie, grazie. E poi i bambini Carmelo Lauricella. Grazie. Margherita Frarelli. Grazie. E Claudia Carusi. Grazie. Ci risentiamo la prossima settimana e nel frattempo continuate a scrivere a chiedoasilo@radio24.it.